falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi parliamo sì di calcio, ma in una maniera completamente diversa, perché nella storia che stiamo per raccontarvi il calcio fa solo da sfondo a uno scenario e a una personalità particolare, perché il vero argomento della puntata è la difficoltà che alcune persone hanno nel vivere la propria vita quando c'è qualcosa di diverso per cui farsi accettare dagli altri. È il colore della pelle, le idee politiche, religiose, oppure, come in questo caso, l'orientamento sessuale. Siamo in Inghilterra, parleremo di un calciatore che è stato amato dai suoi tifosi e poi, soprattutto dopo una sofferta confessione, un coming out, abbandonato al suo destino. Justin Fasciano è il nostro protagonista. Noi l'abbiamo invitata apposta per commentare con noi il calcio internazionale. Dopo potrà andarsene. Guardi qui ad esempio. Queste immagini sono immagini di calcio inglese. So che lei ama il calcio inglese. Amo moltissimo il calcio inglese. Questo è il Manchester, quello che ha appena visto. Però io vorrei sapere se c'è la persona. No, non c'è la persona. Oggi non c'è. Perché non dovrebbe esserci? Non c'è, quindi non ci rompa le scatole. No, nel meglio non ci può essere la personcina. Questo è l'incontro fra il Leeds e il Coventry. Lei conosce bene il calcio inglese. Lo conosco, ma Fasciano non c'è. Oggi non c'è. Questo era Teo Teocoli che nei panni di Peo Pericoli commentava in una puntata di Mai Dire Gol quello che in quel momento era il suo idolo, era diventato un tormentone. Parliamo di Fasciano, in realtà era John Fasciano, che è il fratello minore del nostro protagonista, che è Justin Fasciano. È un calciatore particolare, a volte preso di mira per svarioni memorabili che venivano alternati a giocate strepitose. Allora, due ragazzini, John e Justin, originari della Nigeria, il padre sparisce quando sono appena nati, la madre che fa l'infermiera a Londra non ha i mezzi sufficienti per crescere i bambini, li affida a un istituto per l'adozione e i due bambini di 4 e 6 anni finiscono nel Norfolk, la regione a nord-est di Londra, la cui città più importante è Norwich. Ovviamente per me è stata una grande sofferenza. Avrei voluto tenerli con me sempre e se avessi avuto la possibilità lo avrei fatto. I soldi erano pochi e non avevo scelta. Justin nasce nel 1961. In quegli anni non è una cosa comune in una cittadina come Norwich vedere due ragazzini di colore. Justin, che dei due è il più grande, si prende subito cura di John, il fratellino. Eravamo gli unici due neri in un piccolo villaggio di gente bianca. Da piccoli a scuola era difficile spiegare sempre perché i tuoi capelli sono differenti, perché la tua pelle è scura. Ma alla fine, quando sei in acqua, o nuoti o affoghi. E noi decidemmo di nuotare più forte di tutti. La fortuna dei bambini è quella di trovare una coppia di genitori che li crescono come se fossero i loro figli. Justin ha un fisico molto atletico, è bravissimo in qualsiasi sport, corsa, calcio, basket, baseball, e ha un temperamento orientato alla competizione. Lui vuole dimostrare di essere il migliore. Questa sua attitudine non sfugge a Ronnie Brooks, che è uno scout del Norwich. Insomma, Ronnie Brooks si accorge subito che quel tredicenne di colore è un talento nascosto che può diventare un campione. I believe I was a father figure to Justin. Credo di essere stato come un padre per Justin. Era chiaro per me che dovevo guidarlo per migliorare le sue abilità calcistiche, ma sapevo anche che lui spesso aveva difficoltà a mettersi in relazione con la gente. E io sono prima di tutto diventato suo amico e gli ho insegnato ad affrontare la vita. Sì, credo proprio di averlo fatto. Sguardo andrà incontro alla vita. Qui non c'è posto per me. gennaio 1979 Justin Fasciano fa il suo debutto nella squadra del Norwich, un mese prima di compiere 18 anni. Fa capire subito di essere un campione, è un attaccante col fisico possente che sa portarsi dietro la palla. Nelle prime due stagioni della carriera segna la bellezza di 40 gol. Fasciano, he can fashion things. He might fashion something from distance. That is unbelievable. Fasciano with a chip from 35 yards with a precision on it. Justin Fasciano, Fasciano, come diceva il telecronista, sembra una pantera nera che si aggira in area in attesa di rifilare la zampata vincente. E poi è un giocatore completo, segna di destro, di sinistro, ha un buon colpo di testa, insomma è candidato a avere una grande carriera. Era forte, bello, elegante. Quando giocava si sentiva sugli spalti che la folla era tutta per lui. I ragazzini di 12 anni lo prendevano a esempio da imitare. Eh sì, così per Justin Fasciano si apre un periodo veramente bello della sua vita, temo il migliore. A Norwich diventa una celebrità, viene fermato per strada dai tifosi di cui è l'idolo e si rende conto che quello che sta facendo non solo sta rendendo felice e orgogliosa la madre e anche il fratello che lo guardano giocare da bordo campo, ma anche molte persone che vivono o che hanno vissuto un'infanzia simile alla sua, il grande riscatto. La cosa che mi sprona a fare meglio è il fatto che io sto giocando per quella parte di popolazione di colore che non ha una vita bella come la mia e che vive nel ghetto, ai margini. Io voglio che sappiano che ce la possono fare anche loro. Io gioco soprattutto per loro. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. Il falco e il gabbiano. Justin Fasciano in questo momento è l'eroe indiscusso della cittadina di Norwich. Ha una missione, quella di rendersi bandiera di un riscatto sociale da parte della classe debole, e ha anche un'altra missione, quella di educare il fratello John. Justin gli dà consigli, anche se arriva un momento della vita di Justin Fasciano in cui il carattere comincia a cambiare in seguito al successo. Il mio rapporto con Justin stava cominciando a cambiare. Lui era diventato famoso e continuava a darmi consigli su come fare meglio. Mi diceva: John, se vuoi fare come me, devi lavorare sodo e devi seguire i miei consigli. E così Justin comincia a saporare il lato glamour del diventare famoso a solo 19 anni e comincia ad arrivare tardi agli allenamenti, parcheggia nei divieti di sosta, insomma fa tutte quelle cose che oggi siamo abituati a vedere tra i calciatori famosi, ma a quell'epoca erano ancora meno frequenti. Lui dichiara apertamente che vuole diventare ancora più famoso, di avere belle macchine con delle ragazze da metterci sopra. Insomma, sta per diventare lo stereotipo di quel calciatore dotato di talento, ma anche pronto a diventare un autodistruttore. Ogni giorno i giornali si occupavano di lui. Io andavo ancora a scuola e ogni tanto, di nascosto, frugavo nelle tasche della sua giacca per prendere qualche monetina e ci trovavo biglietti da 50 sterline. Lui non si rendeva conto del valore dei soldi. Teneva i soldi in tasca senza pensare che potesse perderli. E così il rapporto tra i due fratelli comincia a incrinarsi. Da una parte Justin, sempre impegnato a firmare autografi, a parlare con le radio, con le televisioni, sempre con la voglia di essere al centro dell'attenzione e che partecipa a feste organizzate da PR senza scrupoli che guadagnano solo sulla sua presenza, circondato da persone che non fanno altro che accrescere in lui la convinzione di essere il migliore, però che certo non fanno il suo bene, ma questo è un classico di quel mondo del calcio e anche del mondo del calcio di oggi. Insomma, Justin Fasciano sta perdendo il contatto con la realtà. Nel campo dimostra di essere ancora molto bravo, ha fatto dei gol molto spettacolari, ce n'è uno in particolare, quello che segna nel 1980 in una partita contro il Liverpool. Ryan, Fashionou. Oh, oh, what a goal! Oh, that's a magnificent goal! Didn't seem to be the room between Ray Clements' hand and the post. Cerco di descriverlo. Fasciano che riceve la palla, spalle alla porta al limite dell'area, alza la palla sopra alla testa dell'avversario, si gira, calcia di collo pieno e infila il pallone all'incrocio dei pali. Un tiro magnifico contro una squadra di vertice. Justin, on behalf of Match of the Day, my very great pleasure to present you with this marvelous silver salver for scoring the goal of the season. Thank you. Grande colpo d'ala per Justin Fasciano, riceve il premio per aver segnato il gol più bello della stagione, la sua celebrità si estende anche al resto dell'Inghilterra, si comincia a parlare di trasferimento in qualche grande squadra. Intanto c'è anche una nostra vecchia conoscenza, un allenatore che in quel momento con il Nottingham sta facendo grandi cose, un uomo di cui abbiamo parlato e davanti al quale io mi sono già genuflesso, stiamo parlando di Brian Clough. Di sterline, questa è la cifra che il Nottingham Forest paga per ottenere il trasferimento di Justin Fasciano. Da quel momento anche l'ingaggio si alza, lui è letteralmente coperto di soldi, però i soldi e il successo bisogna saperli gestire e lui non è in grado di farlo, non è in grado di convivere con la sua celebrità, inizia a spendere. Questo atteggiamento, insomma, non piace a chi gli sta vicino, a cominciare dalla sua famiglia. Diventò ridicolo. Si mise a spendere migliaia di sterline in abiti e scarpe e il suo atteggiamento cominciò a diventare insopportabile, nauseante. Io ho perduto mio fratello quando andò nel Nottingham Forest. Dimenticò il suo passato accecato dal lusso e dal successo. E quando vai troppo in alto, prima o poi cadi. E qui c'era tutta l'amarezza del fratello John, che vede quello che era il suo idolo e l'idolo di tanti cominciare tipico declino che coglie molti grandi calciatori. Comincia a firmare contratti pubblicitari, auto potenti che vengono sfasciate, il disco come cantante, vestiti appariscenti, tutto per farsi notare. Fasciano guadagna 20.000 sterline a settimana all'inizio degli anni 80 e quindi perde il contatto con la realtà. E qui c'è una spaccatura, insomma, tra calciatori che vedono il calcio come un lavoro, che si dedicano in maniera professionale e amorevole. I nomi li sapete tutti, che ne so, Messi, Zanetti, Maldini, Pirlo, Del Piero, e poi invece altri calciatori che vengono travolti. Capitò con George Best, capitò con molti giocatori di cui abbiamo parlato, capitò con Gascogne, tutto sommato anche col più grande di tutti, con Maradona. E forse oggi, insomma, i nomi di quelli particolarmente a rischio li sapete tutti. Quando poi, come Fasciano, hai a che fare con un allenatore come Brian Clough, devi fare solo una cosa per andare d'accordo con lui: fare gol e applicarti. Quando Fasciano comincia a sbagliare qualche gol di troppo, si apre un periodo che lui non avrebbe mai voluto vivere e soprattutto si apre il conflitto col grande Brian Clough, ma di questo vi parleremo dopo. Just throw me out if I get obscene, but that's the way that I've always been. I think I know for certain it's sad to think it's a hard day. We're on the living about it. Man, it was me, it was me. Il falco e il gabbiano. Stiamo stiamo raccontando la tipica storia che parte in maniera gloriosa e finisce in maniera ben diversa. È la storia di un calciatore inglese, Justin Fasciano, 2 anni a Norwich, e diventa l'idolo dei tifosi, 40 gol, e poi il passaggio a una squadra più importante, il Nottingham Forest, che in quel momento era una squadra di vertice, allenata dal grande Brian Clough, di cui abbiamo anche raccontato la storia, un allenatore dal carattere molto difficile e uno che, se non giochi bene, è capace di insultarti, è capace di fare qualsiasi cosa, è un duro. La svolta della vita di Justin Fasciano diventa molto complessa, come ci ricorda il fratello John. Tutti i giocatori sono semplici merci. Justin veniva dal Norwich, dove la gente si saluta per strada e tutti sono gentili. E se la domenica sbagli un gol, nessuno ti dice niente. Adesso su di lui c'era una grandissima pressione. Justin non era affatto pronto. Insomma, 32 presenze e 3 gol. Troppo poco per uno come Brian Clough, che durante un allenamento attacca Fasciano anche sul piano personale. Perché lui intanto continua a amare la bella vita, esce ogni sera con la fidanzata del momento e frequenta dei locali particolari, anche perché in alcuni locali ci sono spettacoli di spogliarello anche maschile. Insomma, dopo qualche tempo Justin comincia a frequentare quel tipo di locali e poi comincia a non portarsi più dietro la ragazza di turno. Insomma, i giornali cominciano a rumoreggiare su una sua almeno presunta omosessualità e lo stesso Brian Clough, che non ha certo il dono della diplomazia, lo prende in giro pubblicamente durante gli allenamenti proprio riguardo alla sua virilità. Non ho mai sentito nessuno dire apertamente che Justin fosse omosessuale. Molta gente, quando diventa famosa, viene coperta da pettegolezzi a proposito dei suoi gusti sessuali. Ma Justin non faceva nulla per smentire queste voci. E Justin Fasciano comincia a soffrire, comincia a cercare appigli, comincia a cercare aiuti. Prima frequenta la chiesa locale per trovare rimedio nella preghiera, poi addirittura vola in Nigeria per incontrare il suo vero padre. Anche questo viaggio è una delusione. Torna in patria e in uno dei suoi primi allenamenti nel 1982 ha un violento litigio con Brian Clough, che senza mezzi termini gli dà del finocchio davanti ai suoi compagni e lo estromette dalla squadra, ordinando addirittura a 2 poliziotti di allontanarlo con la forza dal campo di allenamento. Insomma, 18 mesi dopo essere stato il primo giocatore inglese a essere pagato più di 1 milione di sterline, Fasciano viene regalato per 120.000 sterline alla squadra rivale del Forest, il Notts County. Quindi addirittura, come dire, tanto non combinerà più nulla. E in più, come ciliegina sulla torta, si aggiunge un infortunio al ginocchio che lo costringe al riposo forzato e mette in dubbio il prosieguo della sua carriera. L'infortunio al ginocchio iniziò come una stupidità, ma poi si aggravò nel tempo e alla fine Justin si ritrovò a spendere la maggior parte di quel che aveva guadagnato per cercare anche all'estero le cure giuste per ritornare in campo e giocare. Quasi tutti i suoi soldi furono usati per questo. Così negli anni successivi si ribaltano i ruoli. Da un lato Justin Fasciano, quello bravo, il fratello maggiore che passa da una squadra all'altra, cerca di ritrovare la forma, intanto non smette di avere un tenore di vita altissimo a cui si è abituato e che ormai comincia a non potersi più permettere. Dall'altra parte John, il fratello minore, quello che vedeva il grande come il suo modello, che diventa lui un calciatore di successo e a questo punto è lui a doversi prendere cura del fratello anche dal punto di vista economico. Justin's lifestyle never changed. Lo stile di vita di Justin non cambiò mai. Continuava ad avere macchine costose, vestiti, orologi. Faceva investimenti in imprese commerciali che gli facevano solo perdere tempo e denaro. Non si accorgeva che tutta la sua vita era costruita su un castello di sabbia. Justin Fasciano ha bisogno di soldi per poter mantenere il tenore di vita da calciatore famoso. Così nel 1990 viene contattato dal Sun, il giornale londinese, quello più temuto dai VIP, quello sempre pronto a dare scandalo, a scrivere di scandali più o meno reali. Il Sun convince Justin Fasciano a vendere in esclusiva la sua storia personale, a raccontare il suo segreto, quello che non ha mai confermato né smentito in tutti quegli anni. Il giorno prima che la storia venisse pubblicata, Justin mi telefonò e mi disse molto semplicemente: senti John, io sono gay e sono omosessuale e ho intenzione di raccontare tutta la storia al Sun. Mi hanno detto che sarà una grande storia. Certo, gli ho risposto. Essere negro ed essere povero non è una grande storia, ma essere negro ed essere gay per loro è come Natale. John capisce che quel tipo di intervista sarebbe la fine per Justin, lo supplica di cambiare idea, arriva al punto di promettergli lui le 80.000 sterline che il giornale gli avrebbe versato, ma Justin dice che è troppo tardi, lui vuole fare chiarezza e liberarsi di un peso che lo accompagna da anni. La notizia ha un impatto devastante sulla vita di entrambi i giocatori. John però riesce a reagire, perché anche se viene pubblicamente deriso dai tifosi del Wimbledon, riesce a rifarsi con i suoi gol e in qualche modo riesce a superare lo scandalo. Per Justin la cosa è diversa. Intanto l'intera comunità nera si scaglia contro di lui per aver fatto coming out. E poi bisogna dire che la Gran Bretagna non è mai stata una terra particolarmente comprensiva nei riguardi dell'omosessualità, soprattutto in passato. Così Fasciano è costretto prima a scendere di categoria e poi a lasciare il suo paese, va a giocare in Svezia e poi negli Stati Uniti, e continua a fare più notizia sui giornali di gossip che non in quelli sportivi. Ad un certo punto non c'era più differenza tra le notizie vere e quelle false che uscivano sui giornali. Appena si finiva di parlare di una notizia su Justin, ecco subito un nuovo gossip. Così i giornali iniziano a pagare Justin per attribuirsi degli scandali, purché parli di qualcun altro, di cantanti, di parlamentari, di uomini di spettacolo. Lui è travolto da questo meccanismo che ha costruito per incassare denaro e poter vivere nel lusso che ha sempre ostentato. Insomma, è vicino alla fine. Insomma, decide di dire basta, scappa negli Stati Uniti e si allontana per sempre dal mondo del gossip e anche da quello del calcio. Termina la carriera alla fine del 97, anche se ormai da tempo, insomma, non si sentiva più parlare di lui a livello calcistico. Nel 1998 è nel Maryland, allena una squadra giovanile, una piccola squadra. Lui sembra aver ritrovato la tranquillità che andava inseguendo, ma nel marzo di quell'anno arriva l'ultima tegola, un avvenimento da cui non riuscirà più a rialzarsi. Un giovane 17enne che ha conosciuto in un locale lo accusa di averlo fatto ubriacare e aver abusato sessualmente di lui. Questo ovviamente è un reato e per Fasciano viene emesso un ordine di cattura. Justin riesce a tornare in Inghilterra, contatta il fratello ma non sa cosa fare, perché la vergogna di tornare in famiglia è troppo grande. BBC Radio 4, at 6 o'clock, the news with Corey Caulfield. The former footballer Justin Fasciano has been found dead in a garage in East London. It's understood Fasciano, who was 37, died from strangulation, although the results of a post-mortem examination... È il 3 maggio. Justin Fasciano ha solo 37 anni. Scrive poche righe con la sua versione dei fatti di quello che era accaduto. Il ragazzo, a sua dire, era consenziente e la mattina dopo aver passato la notte assieme ha chiesto dei soldi a Fasciano, insomma lo voleva ricattare. Siccome Fasciano si è rifiutato di pagare, il ragazzo lo ha denunciato. Così, finito di scrivere questa lettera, Justin Fasciano si impicca in un garage alla periferia di Londra, e lasciandoci la vita di un uomo che ha assaporato il successo in ogni suo aspetto, ma non ha saputo gestirlo e non è stato in grado neanche di gestire e proteggere la sua stessa vita. Colpi d'ala che vengono pagati a caro prezzo, come quello di Justin Fasciano, che avrebbe potuto diventare un grande centravanti e invece si lasciò travolgere dal suo stesso successo e dalle sue debolezze. Noi vi aspettiamo con altre storie. Scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure andate sul sito di Radio 24, oppure venite a cercarmi, a cercarci sui miei profili e sui nostri profili vari, Facebook, Twitter, insomma, se mi cercate mi trovate. Ciao. You can take-